piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ammettiamolo, gli adolescenti non sono persone poi così sincere. Sei in quel momento della vita in cui inizi ad avere un po' più di libertà, in cui inizi a farti le tue amicizie, ed è anche quel momento in cui i tuoi genitori vorrebbero che tu fossi un po' più responsabile. Ed è proprio per questo che stanno sempre in mezzo alle palle. Quindi ecco a voi tutte le bugie che sicuramente avete detto almeno una volta nella vita durante l'adolescenza. Buona visione. Mamma, papà, non guardate questo video. Ah, stasera dormo dalla Virgi. Ha bisogno di aiuto per i compiti. Sì, ci sono i suoi genitori lì. Sì, sì, ci accompagnano i suoi genitori. Lui! Ah no, è mio amico. Facciamo un progetto di scuola insieme. No, te lo giuro che non ho bevuto neanche una goccia. È stata bravissima. Abbiamo preso a caso su YouTube qualche riferimento delle difficili e controverse elucubrazioni che passano per la mente di un genitore, di un figlio, quando, ahimè, o per fortuna, dipende dal punto di vista, quel tenero fanciullino, quella batuffolosa bambina comincia a spuntargli un po' il pelo nelle parti giuste e diventa un adulto e si guarda intorno. Voi direte come lo dici in maniera brutale, no, ma proprio in maniera brutale lo sto dicendo. Viene un momento in cui i figli si staccano emotivamente da questo cordone eterno con le mamme, ma anche con i papà, ma un po' più con le mamme, devo dire, e cominciano a esplorare il mondo a loro attorno e scoprono quella fantastica, controversa, dolorosa, lancinante, allo stesso tempo stimolante dimensione che è la sessualità. Insomma, i figli crescono e cominciano a fare sesso. Come lo state vivendo? Come l'avete vissuto da padri, da genitori, da madri o da figli questo momento? È un momento difficile, controverso, in cui chi è dalla parte del figlio deve simulare, perché conviene sempre far credere ai genitori che siamo più bambini di quello che siamo, quando poi in realtà abbiamo già cominciato ad annusare in giro e sappiamo di che si tratta. E se siamo genitori facciamo finta che non ci accorgiamo di certi segni inequivocabili di questo cambiamento, perché sanciscono il nostro passare in seconda fila, a diventare altre cose, e quei teneri ragazzini che pensavamo l'immagine dell'innocenza cominciamo a pensare che tanto innocenti non saranno più. Perché? Perché siamo vincolati, obbligati, condizionati, una visione che in fondo tutto ciò che è sesso è peccato, è qualcosa da consumare in una dimensione umbratele, nascosta e limacciosa, e quindi quando i figli fanno sesso i genitori entrano in crisi. Allora ragazzi, la prima volta che ho avuto il ciclo, devo dire che non mi ricordo se avevo 13 o 12 anni, so solo che mi è arrivato il primo di gennaio, ero appena tornata, avevo fatto un viaggio in macchina e premetto che io ero molto molto molto ignorante da bambina, perché non sapevo niente, non mi era stato detto niente, ero proprio una bambinona, nel vero senso della parola, purtroppo ero così, non come adesso, che sono cambiati leggermente i tempi. Questo è il canale YouTube di Ilaria Trucco che racconta il dramma del menarca. Non so perché è ancora un problema, in un momento in cui siamo circondati da pubblicità di signore che dai 7 ai 70 anni mettono pannoloni variamente usati per secrezioni di ogni tipo, fino a quella terribile pubblicità con la signora attempata che si cosparge di pannolone, poi dici io metto la minigonna, cioè benissimo, capita a tutti, ma non è proprio il massimo vederlo all'ora di pranzo. Beh, diciamo, in questo problema si è trovata impastoiata una cara amica che vive a Boston ma oggi casualmente passa per Roma. Marina Viola, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi qua. Marina Viola è una scrittrice, è nota per aver scritto un libro molto interessante sulla sua esperienza con un figlio autistico, Luca, che ha 23 anni, e in questo mi sento a lei affratellato. Ma di figli ne ha tre, Marina. Ha Sofia di 20 anni e Emma di 13 anni. E stanca di parlare soltanto del figlio autistico, ha allargato il suo campo d'azione usando biecamente la vita privata delle proprie figlie e raccontandolo in un libro, Loro fanno l'amore e io mi incazzo, ambizione e smarrimento di una mamma troppo sincera, edizioni Sonzogno. Partiamo subito, entriamo subito nel vivo. Hai sentito la influencer che parla del suo menarca? È un problema che è lambito nel tuo libro. Una delle tue bambine a un certo punto comincia a guardarti, dice: mamma, ho un pelo nella mia, non so come la chiama, Vegege, com'è? È gergale, come si chiama, esatto. Diciamo, l'organo femminile. E questo significa che lei voleva andare equipaggiata di tutti i necessari strumenti per la contenzione del ciclo. Sì, lei non vede l'ora, è una cosa che... Ancora non è avvenuto? No, ancora non è avvenuto. Non dire che te l'ho detto, però non è ancora avvenuto. Tanto sta a Boston per sua fortuna. Sì, 13 anni è lì che aspetta speranzosa, ma ancora non è avvenuto. Però si controlla tutti i giorni dove vanno i peli, da dove crescono, cosa deve fare. Se ce n'è uno, dove vanno? Che fa? No, adesso ne ha un po' di più. Tu hai il controllo anche, diciamo, sulla l'imboschimento intimo della tua figlia, scusa. No, ma lei che me lo viene a dire? Ma perché c'è questo rapporto così stretto fra mamma e figlia? Ma io poi sono curiosa, glielo chiedo, lei si imbarazza abbastanza. Ma perché ti fai fatti suoi in questo caso? Perché sono curiosa, perché sono una rompipalle. Poi la figlia più grande, invece, c'è un'altra situazione, perché è un po' più grande, e quindi il grande passo l'ha fatto. L'ha fatto. E tu hai saputo il momento esatto in cui ha fatto il grande passo? No, l'ho saputo, cioè non sapevo se fosse la prima volta, ma ho saputo perché lei ha conosciuto questo ragazzo in internet dall'Alabama, cioè il famoso, diciamo, il caso drammatico dell'Alabama. Caso drammatico dell'Alabama. Tu in che stato stai? Nel Massachusetts, ecco. Sono a 2000 km. 2000 km, lei giustamente si è trovata un fidanzato a 2000 km. Io ero tranquilla, infatti, perché tanto 2000 km. Però è venuto. Però è venuto, lei voleva andare da lui e lui io l'ho detto assolutamente, non ci mancherebbe altro, assolutamente no. Compromesso storico, è venuto lui, è arrivato, stivale da cowboy bianco, un tremendo. Tremendo, perché tremendo? Stivale a cowboy bianco. Vabbè, nell'Alabama che deve fare? Non lo so, sicuramente. O Susanna. Esatto. Io avevo separato le camere perché, malgrado avessi detto il sesso è bello, fallo quando vuoi. Tua figlia quanti anni? 23? No, 20. 20, però allora ne aveva 17, minorenne. Me l'ha già consumato? Ma io non lo so. Secondo te? Secondo me sì. Che sta dormendo, figurati. No, certo. Perché mi aveva chiesto di prendere la pillola, quindi evidentemente sì. Indovina cosa la prendeva, per mal di testa. Appunto. Però lì non avevo mai... Però nessuno era mai venuto a dormire da noi, o lei non era mai andata a dormire. Consumava ampiamente fuori suoi. Casa, certo. Però adesso la presenza di uno che è arrivato da 2000 km per star con lei, tu capisci. Infogliato come uno stallone, poi, tremendo. Immagina. E ovviamente non poteva negare il fatto che avesse quella voglia lì. Lui sì, 2000 km, lui, scusa, per cosa deve farli? Appunto, mica un pellegrinaggio alla Madonna di Međugorje. Viene la tua figlia pregna di desiderio e vogliosa di soddisfarlo. E lui anche. E quindi... Dai, non dir così che mi mancassi. Lo dico apposta. Tu pensa adesso che tu sei qui a Roma, tua figlia che starà facendo? Tanto non ascolterà. No, dai. No, dai, chissà, è il momento buono. No, non ce la vanno a scuola femminile. Sono le peggiori, scusa. Dai, detto questo, io avevo, non ero assolutamente impreparata a questo passaggio. Siamo andati 800240024, mi ricorda in Tonti che è aperta al pubblico questa trasmissione. Allora, io sto torturando Marina Viola, che ha scritto questo libro e dice: vengo a presentare il mio libro. No, vieni qui a soffrire, e sto gettando sale nella sua ferita. Ma voi che siete a casa, avete dei figli in questa età, avete passato questo problema, questo momento in cui bisogna gestire la sessualità dei figli, o siete stati figli? Come avevate, diciamo, possibilità di trasferire ai vostri genitori il fatto che proprio se la sera uscivate non andate a giocare a ping pong o a bervi o a mangiarvi un gelato, andate a fare altre cose? Ecco, la sessualità nel rapporto tra genitori e figli. E vedo con interesse che questa trasmissione sta richiamando a frotte i miei colleghi. Vedo una collega che ha una bambina piccola che ha 5 anni, ma già sta qui tutta presa per pendendo le labbra di Marina Viola. Allora, il signore dell'Alabama, il ragazzo viene con questi stivaloni. Sicuramente con dei condomi in tasca, ovvio. Sì, ma l'hai visti? No, ma me lo immagino. Tra l'altro mia figlia, io per farla mamma moderna, un giorno in farmacia le ho detto: ma ti servono dei condom? Lei mi ha detto sì. E io brava che li usi. Poi sono andata in... Tenuto un tuffo al cuore. Sì. Sei andata a piangere. Sì, no, a bere. Quella è una trappola. Lei diceva no, tu eri contenta, dice no, ancora il libato. Io pensavo, dicesse: ma va, ma cosa mi chiedi? Ma ci mancherebbe altro, ma cosa vuoi che faccia? Invece sì, tranquilla proprio. Ha specificato di che misura servivano? Sarebbe stato il massimo. Ti chiedeva un XXXL, che facevi? Almeno è contenta, no? Vabbè. Allora, con l'Alabama, questa è la gestione, la case history. Tua figlia allora porta questo in Alabama. E porta questo in Alabama. Io le avevo separate due camere, una di sotto e una di sopra. L'unica regola era però non si fa niente. Gliel'hai detto? Sì. Cioè viene ma non consumate? No. Beh, brutto dirlo. No, però. Tremendo, però l'avevo detto e lei ha detto sì, sì, ma va sono bene. Una donna emancipata. Ma infatti io poi... Hai vissuto tutta la rivoluzione femminile, in America hai fatto di tutto, ti sei fatta incatenare, cioè adesso... Cose con cui, che avevo condiviso con lei, tra l'altro, per cui proprio l'errore, cioè l'errore, perché io non ero pronta io, come se la sua intimità dipendesse da come Beh, sono pronta io. Voglio sapere io, come è andata a finire il caso dell'Alabama. È andata a finire che io ho fatto vedere a lui la sua camera e a lei, e poi loro sono andati in camera sua di lei per... Beh, che sarà logico, scusa, però alle 10 di sera abbiamo detto vabbè, saranno lì a no, chiacchierare. Perché scusa, non si scopre alle 10 di sera? No, no, ma eravamo svegli noi magari. E che vuol dire? Beh, no, ma lei già sapeva la regola. Sentivi, tu sei dalla sua parte, tu sei dalla sua parte di lei o di lui? No, ma è differente. No, io allora e niente, poi la mattina dopo io pensavo che lui andasse in camera sua, lei, io ignaro. Ma tu potrei pensare, scusa, mettiti tu a 20 anni, ti mettono uno stallone dell'Alabama nella non stanza vicina. Non era sto stallone, tra l'altro. Vabbè, che stallone, dei tuoi occhi, i suoi occhi, sì. Con gli stivali e tutto, nella stanza accanto, ma lo senti palpitare, è chiaro che vai nella sua stanza o viceversa. Sì, però almeno fingi. Vabbè, come cosa è successo? Almeno ci hanno passato la notte insieme, sono scesi. Sul lettino a una piazza? No, mia figlia ha un letto matrimoniale. Beh, quindi che bisogno c'era di metterli separati? Certo. E poi la mattina dopo sono scesi, lei in mutande con la magliettina, lui è buongiorno, buongiorno. Con l'aria appagata. Buongiorno un cazzo. Lei aveva l'aria appagata? Certo, anche lui. Lui sì, pensate la notte che hanno fatto. E poi sono andati di sopra, dai. Poi sono andati di sopra e hanno fatto la doccia insieme e lì... sono crollata. Gli ho fatto un mazzo così. Una ripresina mattutina. Secondo me. Beh, gli uomini sa, c'è questa cosa che la mattina sono un po' su di giri. Sì. E tua figlia non lo so, non lo so. Io vabbè, detto anni. Questo. Detto questo, io mi sono arrabbiata tantissimo, le ho fatto un po' il mazzo. E che gli hai detto? Non si fanno queste cose? No, ho detto, dai, c'era una regola, già l'abbiamo fatto venire. Sì, ma scusa, come puoi imporre una regola almeno a una figlia nascondi. Così? Nascondi. Ma uno che, ma perché devi nascondersi, vedi? Ma sei una donna cosiddetta di sinistra. Perché la regola era hai la fatto regola. Le battaglie contro Trump, hai fatto quella... e poi dice a tua figlia che deve far finta di non far l'amore. Ma infatti il libro è proprio su questo, la parte razionale, la parte emotiva del libro. Fatta questa mamma. Cosa, poi a fine come è andata a finire? Poi niente, poi gli ho detto vabbè, potete dormire insieme. E poi niente, poi lei è andata a trovare lui e poi lui l'ha mollata. Vabbè, cazzo. Beh, l'ha usata come oggetto sessuale. Tremendo, cioè, sollazzato, sì. Beh, però magari anche lei l'ha usata. Si sono sollazzati a vicenda e sono lasciati. Irene, buongiorno, per fortuna sì, chiama Irene. Buongiorno. Irene, allora, io sto torturando Marina, ma sono pronto a torturare anche te. Mi torturi. Niente, volevo raccontare un episodio che ha colpito me prima di tutto, nel senso che mia figlia all'epoca aveva 15 anni, sapevo che frequentava un ragazzo più grande, no? Quanto più grande? E lui faceva l'ultimo di liceo, però aveva perso un paio d'anni, quindi facciamo il conto, 3 più 2, almeno 4 anni di più. Quindi già 20 anni quasi lui? Sì. Quindi sì. Consumato amatore e conoscitore di tutte le seduzioni possibili. Chi lo sa, perché poi dopo io ce l'ho avuto per casa per un mucchio di tempo. Non quindi sono fidanzati? Com'è? Sì, sono fidanzati poi. Sì, sì, comunque volevo raccontare l'episodio strano, diciamo così, che è quello per cui io sapevo che c'era sto tizio che girava intorno a mia figlia e un giorno per strada, io ero in macchina, la vedo lungo il marciapiede che si tiene per mano a lui, no? Mamma mia, terribile, ha perso la sua virtù in questo punto. È stata una cosa per me, io mi è venuto un attacco di gelosia pazzesco che ho detto ma mi sto sentendo come se fossi io un fidanzato di mia figlia. Ma perché concupivi il fidanzato di tua figlia? Ma no, per niente. Milfeggiavi oniricamente col fidanzato di tua figlia? E poi vedi che c'è qualcosa di epico e freudiano dietro. Sì, sì, sì. Tu invidiavi tua figlia perché c'era un bel ragazzotto e tu invece no, è questo il fatto. Può darsi, può darsi. Marina, pensi sia questa la ragione? Invidiavi no, il texano io tua ti figlia? Capisco perfettamente, guarda, so benissimo cosa vuol dire la gelosia. Io ero gelosa perché lei era giovane e io anzianotta, però la gelosia c'è. Era proprio una gelosia verso mia figlia. E poi quando è andata avanti nel tempo hanno cominciato a consumare promiscui rapporti, come te la sei messa te? Allora, io credo che lì non sia successo con questo sì, ragazzo, perché no. Lei ha aspettato poi la maggiore età e nel frattempo il rapporto con lui si era rotto. Da una scusa, questo qua può stare 3 anni, scusami, ragiona, un ventenne, lei era acerbina, ma sui 16 a 7 anni poteva aspettare un attimo. Ma io mi ricordo che faceva dei ragionamenti e poi so che è andata in consultorio quando oramai aveva 18 anni. quindi credo che la cosa sia successa con un altro che mi ha girato per casa pure quello, che era tatuato dalla testa ai piedi, orrendo, cioè... Però lì voi state descrivendo come orrendo, care mamme, ciò che è all'apice dei vostri desideri più nascosti. Non è vero, ma così. Non è vero. Se no non invidereste le figlie, non ci pensereste, non vi porreste il problema. Sentiamo Mario, va, sentiamo Mario. Mario. Sì, salve Nicoletti, intanto gli faccio i complimenti perché è sempre simpatico e mi piace veramente un sacco. Vai al punto, parla di quello che è il tuo problema. Sì, allora il mio problema è questo, che ha anche gestito più che altro mia moglie. Mia figlia ha quasi 13 anni, il comune... Vabbè, una bambina ancora, dai, non possiamo parlare di 13 anni. No, però il comune ha fatto un corso, diciamo, per eventuali, quando il corpo cambia, il ciclo, tutte giustamente, queste cose giustamente. Qua. Giustamente, anche lei mi racconta che ha qualche amico, ha qualche simpatia. Io però una cosa mi raccomando, il mio messaggio è questo qua. Divertitevi perché è una cosa bella. Vabbè, 13 anni è una bambina ancora, sempre, dai. Voletevi sempre bene, perché quando manca la salute manca tutto. Ma scusa, c'è troppe cose messe insieme, scusa. Che c'entra la salute con la salute bene? Sessuale, magari? No, nel senso per una futura vita sessuale. Cioè, tua figlia deve imparare a sapere che esiste il preservativo, così quando consumerà. Sei un grande, bravissimo. Però volersi bene non c'entra una mazza, perché può usarlo anche con chi non vuol bene. Sì, no, ho capito, ma se io mi voglio bene io, in automatico voglio già verso bene se stessa, altri. Ah, ho capito. Rispetto verso se stessi. La tua salute va salvaguardata. Mario, perfetto. Ci fermiamo un istante. Melog. Ma è solo un avvertimento, perché molti dei miei pazienti che hanno fatto uso di droghe alla tua età ora hanno problemi nelle loro performance. Può spiegarsi meglio? Sì, fanno fatica a finire. Eiaculazione. Schizzo, spruzzo, sperma. Mamma, Gesù Cristo! Non so perché pensa che io abbia problemi a finire. Non ho detto che hai problemi a finire. Però se vuoi parlare... Ok, io ora devo andare, me ne vado. Questa è la situazione peggiore che può capitare a un ragazzo, è una mamma sessuologa e anche assatanata che prende i tuoi compagni di classe, anzi prende il bullo che ti bullizza e se lo fa, che è una cosa che ammazzerebbe chiunque. È Sex and Education, che è una serie TV che sta andando su Netflix, così mi hanno scritto, non so se, qual era il titolo, no? Qual è? Sex Education. Così mi hanno scritto, Sex Education, così mi hanno scritto, in tonti, evidentemente che sono temi che tratta qualche distanza. Comunque Sex Education è una serie TV, c'è sta mamma sessologa con sto ragazzino poverino che figuriamoci com'è ridotto, c'è la mamma che continuamente si porta dentro amanti perché è sessologa, quindi studia sul campo quello che è la materia del suo scibile, è ridotto un po' male. Noi molto più semplicemente stiamo parlando con Marina Viola, che ha scritto un libro, Loro fanno l'amore e io mi incazzo, editore Sonzogno, che è la storia di una mamma che gestisce tre figli, un maschio e due femmine, e prova un senso profondo e sottile di disagio quando è ora di gestire, conoscere, intravedere la sessualità dei figli. Marina, tu probabilmente tutto nasce da un problema generazionale. Tu mi hai raccontato in questo libro alcune situazioni molto divertenti, però danno il segno da dove vieni, quella che è la famiglia d'origine. Potresti raccontare al nostro pubblico la vicenda colorita di tua zia la prima volta che andò da un ginecologo? Sì, la racconto. Quanti anni ha tua zia adesso? 80. È 80, ecco. Vabbè, questo, da qui sei nata te. Ma infatti questo libro parla molto del gap generazionale, no? Tra genitori, certo. Nostri genitori che non, di sesso non parlavano, e noi che invece vogliamo portarci avanti e parlarne senza sapere cosa fare. Per esempio, a quei tempi non si andava dal ginecologo quando si era incinta, non si andava, era una cosa tabù. E mia zia ci racconta sempre della volta che cresceva un prato di funghi, se no non ci andavi. Ah no, infatti, cioè non lo so, non ho mai chiesto. Dai, vabbè. Ti piace? Vabbè, ci ha raccontato quando eravamo più ragazzine, la prima volta che è andata al ginecologo, vestita tutta elegante, con i tacchetti, come andava... Tacchi a spillo, come andava ai tempi, la borsetta in pandan con i tacchetti, eccetera, eccetera. Arriva, il ginecologo gli dice, si spogli, si prepari. Lei è andata a spogliarsi, non sapeva cosa togliere, quindi ha detto, vabbè, la borsetta non la posso lasciare qui e la porto. a piedi nudi non ci posso andare, quindi tacchi a spillo e mutande reggiseno. Anche le calze magari? No, calze, in quegli anni, certo. Vabbè, è uscita così conciata davanti al ginecologo. Si siede sulla sedia di sembra fronte un film di Pierino. Esatto. Il ginecologo la guarda e dice: prima volta? E lei: sì. Allora va, ritorni a spogliarsi, deve solo togliersi le mutande. Lei vergognatissima. Rimanzionale. Così è iniziata, sì, poverina. Così è iniziata la sua prima visita. E te invece com'è andato il rapporto con i tuoi genitori? Quando sbocciava il fiore della tua impudicizia, come l'ha visto tuo padre e tua madre? Ma mia madre e mio padre erano figli della loro generazione, per cui cattocomunisti, però è aperti mentalmente in tante cose, però di sessualità non hanno mai parlato. Tutti i cattocomunisti sono sessuofobi, è chiaro. Sì, ma poi non avevano gli strumenti. Non avevano gli strumenti, però anche loro si sono portati avanti rispetto alla loro generazione, prima di loro. Per cui quando io e le mie sorelle abbiamo chiesto a mia mamma come nascono i figli, lei è stata molto tecnica, molto precisa. Il pisello va dentro l'amichetta, lascia un seme. L'amichetta? A Milano si dice così. O forse che è un hot dog, fammi capire. No, è un po' la forma. E poi lascia un seme e se vuoi... I Numba fanno il filone del pane lungo mezzo metro. No, ma l'amichetta è femminile, il pisello è maschile. L'amichetta è il panino, la rosetta. Sì. Ho capito, fin qua ci arrivo. E poi dopo 9 mesi, se vuoi, perché c'era anche tutto il cosa dell'aborto, se vuoi può nascere un figlio, sempre esce dall'amichetta, punto e basta. Non ci ha raccontato, ovviamente, perché come nessuno a quell'età aveva gli strumenti per raccontarlo, il piacere del sesso, oppure anche solo il tabù del sesso, però ci aveva dato delle regole chiare, quindi non si può andare al fidanzato se non c'è... Ci sono i genitori, non si può dormire neanche per idea dal fidanzato, insomma le regole che erano... Dov'è l'apertura in tutto questo? Cioè la figlia è come apertura. Il forno, un panificio, non è una no, donna. Ma amichetta non lo dice lei, non se l'ha inventato lei. Vabbè. E per cui, cioè le regole erano le regole che avevano tutte le mie amiche in realtà. Non è che si fosse, ecco, non è che lei fosse più severa degli altri. Hai fatto un cammino esistenziale, sei stata una donna, moderna, anche molto, molto vivace nel campo dell'affermazione dei diritti. Come mai poi ti trovi paralizzata di fronte a una figlia che ne so, maneggia vibratori o si porta fidanzati a casa? Beh, perché secondo me dal punto di vista razionale io ci sono arrivata, ho fatto un passo avanti rispetto alla generazione precedente, credo, io e le altre mamme, e abbiamo sentito un po' il dovere di parlare di questa cosa qua che è la sessualità, e ovviamente se ne parli in modo positivo. Sì, a chiacchiere, però all'atto pratico. E l'atto pratico io non ci avevo pensato all'atto pratico. Quando cioè, immagini le tue figlie indaffarate, ammucchiate gigantesche dentro il talamo coniugale di casa tua, ci rimani male, chiaro. Sì, ma non solo perché non sono pronta, ma perché ha impatto su di me, io divento vecchia, come dicevi tu all'inizio, questa è la cosa. Questo succede. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Che succede a casa tua su questo tema? Beh, è successo un po' di anni fa, perché ormai le mie figlie hanno quasi 30 anni, tutte e due. Ormai figurati, ha fatto già 1000 battaglie per una, è chiaro. Sì, sì, assolutamente. E quando la mia prima figlia aveva nell'età insomma dell'adolescenza ha avuto uno sviluppo fisico importante, diciamo, e era il momento insomma di spiegargli un po' di cose, e mi sono confrontato con mia moglie e mia moglie mi ha detto no, ci pensi tu. Cioè il quindi... padre alla figlia deve spiegare le cose alla figlia, la mamma perché no? E la mamma si è defilata in quel momento. Si è defilata? E niente, alla fine ho dovuto, prendendo un po' la circonvallazione, come diciamo noi, dalle nostre parti. Cioè con carta e penna hai fatto i disegnini? No, no, ho cominciato a spiegargli che l'età, i ragazzi, su come le api col miele, insomma tutte le storie. Per il suo qualche dopo mezz'ora di sofferenza per arrivare a dirgli appunto, mi raccomando, ti consigliamo noi, le precauzioni che devi prendere. Mia figlia, certo, una grande scuola, la mamma che non c'ha il coraggio, il padre comincia con le api e i fiori, non è che andava tanto lontano. Non sapevo da dove iniziare, sinceramente. E su, quel che mia figlia mi ha guardato dopo mezz'ora e mi ha detto, papà, ma lo so già. E quindi sono rimasto veramente male. È male perché mangia tutto ormai. Ma in che mondo viviamo? Ragazzi, oggi mettiamo in mano ai nostri figli all'età di 5 anni uno smartphone. una delle prime cose, ma noi quando eravamo piccoli andavamo a cercare dell'enciclopedia, capito? Certo. Pisello, tubero, baccello, tutte le cose possibili immaginabili, e ci guardavamo le parolacce sull'enciclopedia. Oggi appena c'è un telefono in mano va a guardare YouPorn. Ma infatti c'è molta più responsabilità da parte dei genitori su questo, perché su YouPorn c'è di tutto, cioè su internet c'è di tutto. E per cui secondo me è ancora più importante adesso parlarne, cioè per dire perché proprio... devi decostruire, esatto. Non devi spiegare più le api, devi spiegare, guarda, che non è quella così. Roba lì è un'altra cosa, è un film. Esatto. È difficile, molto più difficile. E soprattutto è impossibile monitorare i figli su questa cosa, perché o gli togli tutto... Che non puoi farlo. Non puoi farlo. Ma è anche impossibile, perché ci sono gli amici. Ma poi non c'è neanche voglia. Cioè io con tre figli, se contavano a monitorare cosa guardano i miei figli sul computer, non esiste. Allora, partiamo in questa seconda parte della trasmissione, e fra un po' ci risentiamo anche con gli ascoltatori, che oggi il problema vero non è tanto dare istruzioni, ma decostruire il mondo fantastico e fantasioso che hanno i ragazzi. Perché? Perché lo guardano in internet, pensano che il sesso sia quello, diviso in categorie, MILF, pissing, gangbang, fisting, queste cose qua, sì, che anche può anche esserci, ci può anche star bene, ma bisogna partire magari da delle basi un sì, po' diverse. Anche perché se uno inizia a far sesso a 16 anni, insicuro, piccolino, e ha in mente di fare quella roba lì, Tu pensa se le tue figlie hanno cominciato già a fare rapporti multipli, dai, plurimi. Ma perché sempre le mie figlie? Di quelle stiamo parlando. Fermiamoci un istante, tra poco. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il problema dell'anticipo. Sottraendo la rata, la radice quadrata del budget totale, moltiplicando per il tasso dell'interesse. A destra? È facilissimo, l'anticipo è uguale alla rata. Con Volkswagen Veicoli Commerciali, la formula è semplice. Fino al 29 febbraio, caddy furgone è tuo con leasing finanziario e anticipo uguale alla rata. Da 169 euro più IVA per 59 mesi. TAN 2,49, TAEG 3,97 per aziende e partita IVA. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. L'idea in più per chi lavora. È inutile fare il corsetto di educazione sessuale che fa abbastanza ridere, bisogna proprio cambiare un po' la prospettiva, raccontarsi ai figli con dei principi, onestà, quindi se uno fa una domanda rispondere onestamente, senza quegli imbarazzi un po' imbarazzanti di alcuni adulti. Ma prendiamo poi le occasioni nella vita reale, vediamo un film, una serie TV dove c'è la scena di sesso, ok, è una buona occasione, no? Per parlarne, per buttargli l'argomento in maniera normale, cerchiamo di normalizzarlo il sesso, è solo così che si cresce. Questa è la nostra ospite ricorrente, Sabrina, che ha un suo canale YouTube, Sessualità e Benessere, dove spiega agli adulti quelli che sono i misteri del sesso e alterna trasmissioni sul bucacche con istruzioni per l'uso di come parlare con i figli di sesso. Cioè, quando guardate un film, guardate Via col vento, nel momento in cui Rossella Ara ha un palpito d'amore, sapete che farà anche lei come le api e come i fiorellini, come i fiori, via dicendo. Io invece sto con Marina Viola, che non ce la fa più, non vede l'ora di scappar via non e tornarsela a Boston, che ha scritto "Loro fanno l'amore e io mi incazzo". E vorrei capire, è forte dire "io mi incazzo" per una madre, perché è fuori di ogni regola, di ogni precedente. La madre rimane perplessa, sconcertata, turbata, vergognosa, o che si incazzi, no, che si incazzi, ci dette una radice proprio legata proprio al senso dell'arrabbiatura. Perché ti arrabbi? Guarda, è stato un po' il quesito che mi sono fatta dall'inizio, quando ho deciso di scrivere questo libro, proprio perché mi sono incazzata così tanto con mia figlia. E non è da te, poi ti conosco, non è da te. No, perché? No, infatti, anch'io mi sono stupita. Non ha fatto niente di male. No, infatti poi tra l'altro ne abbiamo parlato dopo e lei mi ha detto "ma tu mi avevi detto che quando ero pronta perché ti incazzi". Cioè, la cosa più normale del mondo, non ha rubato, non si è drogata. No, ha fatto una cosa normalissima. Non lo so perché. Pensi tu, dice "mamma, sono stata una gangbang", che ti dicevi? No, se me lo diceva l'ammazza. Può succedere nel ma non me lo viene a dire, io non voglio sapere. Vabbè, detto questo, certe cose. Perché ti sei arrabbiata? Mi sono arrabbiata perché appunto poi è andata a toccare delle cose che a cui io non avevo mai pensato, per esempio appunto la mia invecchiatura. Poi sai, noi abbiamo figli autistici, sentirsi vecchi fa paura, perché vuol dire che si avvicinano altre cose che ci spaventano. È che noi abbiamo perso un po' di vista i figli cosiddetti tipici. Esatto. Concentrati sul figlio autistico, che è tutto un altro problema e non lo tocchiamo manco perché è complicato. Ma no, certo. Difficile da dire, la sessualità di una persona disabile psichico. E quelli cosiddetti normali fanno una vita normale, quindi a un certo punto si prendono la loro autonomia. E non siamo pronti. Non siamo pronti, anche perché... l'autonomia significa che sono grandi, che non hanno più bisogno di noi. Ma sei contenta? Mi mette una grande leggerezza. No, anche lì, razionalmente, certo che sono contenta. Sono contenta di aver fatto un buon lavoro. Sofia è una persona estremamente soddisfatta di se stessa, lavora, studia, è bravissima, eccetera, eccetera. Per cui sono soddisfazioni. Ma però sì, un po' di tristezza. Però lei c'ha tra le gambe, c'ha quello che c'hanno tutte le donne. Non è che gliela puoi annullare, capito? Ma io non voglio annullare. Eh sì, però rodendoti l'anima, lei ci Ma io mi sono arrabbiata un po' più che altro con me stessa, poi in realtà, del fatto che. Te volevi essere al posto suo? No, posto dai, suo, no, Alabama no. Alabama no, ma. Però avrei voluto avere 20 anni, in quel ormoni in palla, capito? Vabbè, ci sono gli ormoni, fatti un po' d'ormoni. Ma che ormoni? Vabbè, Claudia. Oh, allora. Come affronti questo problema? Come l'ho affrontato? Mm. Come l'ho affrontato? Nel 1970 avevo 20 anni, ho dovuto comprare un libro. Non mi dire che era Noi e il nostro corpo. Che? Girava solo quello, figuriamoci. Lo vedevamo in tutti gli scaffali le nostre compagne di liceo, Noi e il nostro corpo. Le più emancipate avevano questo libro, sì. No, non era quel libro, sono andata in libreria e ho chiesto, senza vergogna tra l'altro, e comunque non mi ha impedito di rimanere incinta. Ah, cioè, hai comprato il libro e tanto sei rimasta incinta? Sì, beh, avevamo già deciso di sposarci, comunque... Ma nel libro non c'era scritto usa delle precauzioni? Sì, c'era scritto tutto, c'era scritto i tempi, diciamo... di ovulazione. Sì, era andata nella libreria sbagliata, era andata probabilmente nella libreria dei preti e dicevano usa la temperatura basale, lo ginocnaus, così, no? Sì, i tempi, come dire, di piacere dell'uomo, c'era tutto. E quali erano i tempi di piacere dell'uomo in questo libro? Dipende dall'uomo. E ancora non l'ho capito. Sì, diciamo, insomma, i piaceri della donna sono magari un po' più ritardati. Sei incappata in un eiaculatore precoce, quindi sei rimasta incinta. Questo, non c'era scritto. No, mi sono accorta poi di aver fatto qualcosa che non andava fatto. Comunque, va bene, la prima volta. E tu detto... poi con i tuoi figli come ti sei comportata? Ma i miei figli, no, non gli ho detto nulla, insomma così. Hai lasciato perdere. Ma scusa. Avevo un maschio, quindi non tanto. Non c'era problema. Vabbè, Claudia, te, nonostante il tuo impegno letterario degli anni 70, diciamo, ciò che forniva al mercato come manualistica non era sufficiente a impedirti di rimanere incinta incautamente, quindi evidentemente, ma erano anni bui quelli, anni terribili, c'era l'idea di una grande libertà e una grande possibilità di fare tutto, ma eravamo molto più bloccati e inibiti di quanto lo sono oggi. Mariano, buongiorno. Buongiorno, volevo portare la mia esperienza all'estero, io ho vissuto diversi anni all'estero. Dove? Mi trovavo bene, poi tutto il mondo, ma in quel momento mi trovavo in Olanda. La mattina della domenica a casa di mia cognata vedo mia nipote, 13 anni, scendere mano nella mano con il ragazzino di turno. Guardo mia cognata un po' stupito e lei ridendo mi fa... Sì, hanno dormito assieme. E io dico, ma non pensi che sia un po' presto? E lei mi ha detto, senti, a parte il fatto che queste cose si cominciano a fare molto presto, preferivi che mia figlia lo facesse in macchina, in un angolo oscuro, dove magari andava a finire che qualcuno gli picchiava pure, oppure a casa rilassata e accolta come una cosa normale? Perché da loro è tutto normale. A 5 anni in televisione olandese i bambini giocano con i palloncini fatti con i preservativi e qualcuno gli spiega che la masturbazione è una cosa lecita e normale che lo fa la mamma, il papà. È tutto vero, tra l'altro. Sì, sì, tra l'altro è tutto vero, siamo in Olanda. Invidi l'olandesina? Sì, io vorrei essere una mamma così. Oddio, a 13 anni avrai problemi, però 13 è prestissimo. 13 sembra tanto, sai, però ogni paese ha le sue usanze. Esatto. Mi sembra un po' tantino anche a me, però che ti devo dire. Allora, Marina Viola, loro fanno l'amore e lei si incazza. E speriamo che i figli si riescano a francare da questo dolore materno e sanino questa ferita e se ne faccia una ragione, si trovi anche lei qualche bel ragazzotto, così non si incazza più. Ciao Marina, alla prossima. Ciao, grazie.